raro avere una stanza. Ci andiamo a Parigi tutti belli e russi di poter guardare la Tour Eiffel, Champs-Élysées. E invece poi in Spagna andremo noi. Valencia aspetta e poi sarà la movida Valencia. Vale.